L'Italia su una bandiera, su una medaglia, nella vita dei contadini, degli operai, degli artigiani. L'Italia in un libro. Quale fra i libri selezionati dal Comitato del Salone del Libro di Torino rappresenta più di ogni altro il nostro paese? Vota e racconta il perché del tuo voto sul sito www.radio24.it. In esclusiva per te, un buono da spendere su libreriarizzoli.it. Radio 24 è il Salone del Libro di Torino, perché chi ha letto l'Italia com'era aiuterà l'Italia ad essere migliore.